Per la vostra gioia e felicità iniziano i Fuori Posto. I Fuori Posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Buongiorno a tutti e benvenuti al primo programma della radiofonia nazionale nato solo ed esclusivamente per scopo personale. Oh Umberto, finalmente un po' di onestà, un briciolo di onestà da parte tua. Ma scusa, che c'è da dire Filippo? Cioè, perché non sono stato sempre onesto nei tuoi confronti? Che c'ho da dire? Tu sei stato un disonesto nei miei confronti degli ascoltatori, perché tu stai utilizzando biecamente questo programma per riconquistare la tua ex e non va bene, però finalmente oggi l'hai capito. L'ho ammesso. Quindi dobbiamo far partire subito fuori amore, così? Sì, all'improvviso. Così. All'improvviso. Vabbè. Fuori amore. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the prize. Mi emoziono quando ascolto queste note, questa melodia. Guarda, mi emoziono anche io. E voi lo fate apposta, tu e Andrea. Sì, lo facciamo apposta, come no. Vabbè. Ricordiamo la triste vicenda di Umberto Alezio, che è stato per alcuni anni con una bellissima ragazza. Possiamo anche non ricordarlo. No, ricordiamola. Dai, sei onesto, è un momento di grande verità. Va bene. Quindi, ricordiamolo. Allora, il nostro Umberto Alezio è stato... Facciamoci del male. Facciamo del male ad Umberto Alezio. Lui è stato per alcuni anni con una bellissima ragazza che ha avuto anche l'onore e il piacere di conoscere, e giustamente, essendo una ragazza anche intelligente, a un certo punto ha capito che non era più il caso di stare con Umberto Alezio, sì. E l'ha mollato così all'improvviso. E io sono andato fuori posto. Fuori posto e fuori di testa, perché vi assicuro che effettivamente Umberto ha sofferto tantissimo per questo, per questo abbandono. Tuttora soffro, infatti lo vedo con le lacrime agli occhi, è veramente molto brutto. Soffro. Te la senti andare avanti col programma? Beh, andiamo avanti per riconquistarla, cioè io trovo la motivazione solo in questo. Allora facciamo un ultimo appello, tu che sei stata l'ex di Umberto Alezio, lui è qua, vienitelo a riprendere perché ti aspetta a braccia aperte. Un bacio. Eccola. Ma la cosa che a me mi stupisce è che questa tua vicenda sta coinvolgendo tantissimo i nostri ascoltatori, cioè sta diventando anche un angolo dove le persone che ci ascoltano sfogano i loro drammi d'amore. Anche a me stupisce questa cosa. Pensa come stiamo messi. Come siamo messi, veramente incredibile. Radio 24 un tempo era una radio seria, no? Il decadimento con noi. La decadenza. Ma infatti ci cacceranno e torneranno, no, in auge. Giustamente le persone serie torneranno. Allora, però, incredibilmente questo spazio sta generando la voglia dei nostri ascoltatori di sfogare anche i loro drammi amorosi. E ti faccio un esempio, no? Il tema della fine del rapporto. Ci scrive una nostra ascoltatrice, Ilaria, da Firenze, che dice... Che dici, Ilaria? Ragazzi, che tristezza, vi sto scrivendo dalla casa del mio ex, mi ha dato le chiavi, ora sono da sola e sto riempiendo gli scatoloni con tutta la mia roba e tra poco me ne andrò per sempre. Che malinconia. Gli scatoloni, no? Quando finisce la storia. Cioè, dobbiamo proprio infierire così. Certo. Io per esempio mi ricordo che quando è finita la mia storia, che poi è l'unica storia, non è che ho avuto 18.000. Ed è già tanto. L'unica già che mi si è affilato, no? Diciamolo. Una santa. Quando è finita la mia storia, cioè il dramma degli scatoloni è stata una cosa terribile, no? Quindi anche tu hai provato il dramma dello scatolone. Sì, perché lei mi ha lasciato, no? Okay. Ha lasciato tutto a casa, no? E c'era un dramma, no, quotidiano. Nell'aprire l'armadio, ad esempio, e trovare il profumo dei suoi vestiti, no? Lei poi, mamma mia, c'aveva un profumo bellissimo, cioè, bellissimo. Oppure, che ne so, andavi in bagno, aprivi il mobiletto e trovavi le sue creme. Quindi è stato, no, un momento tremendo quello, terribile, degli scatoloni. Tant'è che a un certo punto non ce l'ho fatta più, ho chiamato un'impresa, ho riempito gli scatoloni. Non vi dico, insomma, cosa vuol dire riempire degli scatoloni vuoti, no? La tua vita, no, la tua esistenza in quel momento viene rinchiusa in 7 scatoloni. Me lo ricordo ancora. Cioè un amore chiuso rappresentato da 7 scatoloni. Sì. Un amore sì. Di tanti anni. Anzi, io approfitterei, no, per chiedere a casa, per chiedere a chi ci ascolta, se anche voi avete rinchiuso quello che è stata la vostra storia o un pezzo di vita negli scatoloni, scriveteci. Sì, scriveteci ai fuoriposto@radio24.it, oppure se volete dircelo al telefono, chiamate allo 02 465 24 182, oppure Umberto c'è anche l'SMS sul WhatsApp, giusto? Sì. Che è 349-2386-666. E non dimentichiamo il nostro, no, Facebook. Esatto. Qual è? Non mi ricordo qual è la nostra pagina ufficiale. Non mi ricordo. Ah, mi sa i Fuori Posto. I Fuori Posto. Ecco qua. Però, caro Umberto, siccome ci pagano per fare una trasmissione e non per i cazzi tuoi, vogliamo iniziare il nostro programma? Vogliamo dire ai nostri ascoltatori di cosa parleremo oggi? Anche perché mi fa male parlare di questa cosa. Cioè, gli scatoloni è una cosa bruttissima. Quindi parliamo di altro. Allora, parliamo dei cosiddetti mestieri di strada, no? Nelle grandi città, Roma, Napoli, fioriscono queste attività di strada. Per esempio, parlando di Roma, noi in tutti gli angoli delle strade troviamo i famosi caldari. baldarostai, troviamo i parcheggiatori abusivi, i venditori ambulanti, e c'è una figura professionale che c'è solo a Roma. Qual è? Qual è? Che è quella del centurione, cioè sono quelle persone vestite da antichi romani che si piazzano sotto il Colosseo e si fanno le foto con i turisti chiedendo in cambio una lauta mancia. Ed è un lavoro anche redditizio. Cioè si guadagna bene? Pare che si guadagni molto bene. Senti, mi è venuta un'idea, ma se dovessero cacciarci, anzi quando ci cacceranno... Bravo, non se, quando? Secondo te possiamo... andare a fare i centurioni per strada? Non so se possiamo farlo, perché ci sono già dei centurioni che operano da tempo e bisogna capire se possiamo anche noi accedere a questo mercato. No, il mercato dei centurioni è molto chiuso, no? Perché da alcune inchieste che sono state fatte, no? Che abbiamo fatto anche noi, certo. No? Se ti metti a fare il centurione, i centurioni storici, esatto, si incazzano un pochino, diciamo, ti minano, no? Diciamolo, diciamo. Perché loro ritengono che quella sia la loro zona, hanno stabilito una sorta di monopolio e non accettano che un intruso faccia il suo stesso lavoro. E noi oggi abbiamo qui con noi fuori posto, no? Un fuori posto, no? Uno che non c'è il lavoro, il posto di lavoro, e voleva improvvisarsi centurione, ma non è finita bene. È vero, Armando? Sì, ciao, buongiorno, ciao, buonasera. Sì, sì, è proprio così, è stato così un paio d'anni fa, tre anni fa, grosso modo, orientativamente. Sono andato al Colosseo, d'accordo? Sono andato proprio al Colosseo, davanti alla fermata Colosseo, vestito di tutto punto, quindi il pettorale in cuoio, sai quello del centurione, sì, no? Eri vestito da antico romano. Antico romano, il collellino, i bracciali di cuoio, i salvapolsi, l'elmo e l'elmo, sai, la criniera, no? Sì, rossa, sì, sì, così. Romano, ecco, ecco, ecco. Quindi la mattina è stata una domenica, perché dico iniziamo di domenica, c'è tanta gente, ci sono turisti, coso. Mi metto davanti al Colosseo, d'accordo, e ti dico, sono sincero, cioè, all'inizio faccio pure qualche sordarello, non è uno scherzo, perché ti dico, tra i giapponesi... Cioè, hai guadagnato qualcosa? Guadagni subito. Uno dice sì, ma è difficile, le persone non danno mai. No, io so, per dirti, una giapponese mi ha dato 30 euro. Ah, e 30 io credo euro? Che... Cioè 30 sì. euro per una foto? Certo, mi sono messo in foto, ho fatto, c'era lei, c'era il compagno, mi sono messo davanti, che lei, che avevamo fatto la scenetta, che lei non voleva che dava la sciabolata al marito. Ah, com'è finita? Com'è finita? Che è finita che ha sciabolato, ma l'avrei voluta da. Comunque, voglio dire, mi ha dato 30 euro. Io penso però che lei si è sbagliata, pensava che erano 3 euro, perché non so da loro come sono. Vabbè, andrà bene, però dico, che è successo dopo? Cioè, tu stavi lavorando, le cose andavano bene, e poi? Eh sì, poi a un certo punto mi vedo che qualcuno mi è arrivato da lontano, che era un centurione. Io gli sono andato col viso aperto, gli ho detto ciao collega, scherzando. E ciao collega un cazzo, perché lui mi è venuto avanti e dice, te che fai qua? Dai, sto per strada, sto come te, sto cercando di fare una liretta, non ti dispiace, no? Mi dispiace il cazzo, mi ha detto. Dice, no, te ne devi dire. Perché cioè? Devo? E devi andare via, mi dice. No, ma dico, scusa, la strada è di tutti, la strada è la mia, la strada è di tutti. Che te sto a fare male? Io qualche sordo, c'ho fammi come te. Dice, no, te ne devi andare, te ne devi andare. Dice, io ho provato a fare una residenza. No, io non ce vado ad andare, non te ne vai? E chiama alza il braccio e vengono due persone. Gli segue uno e gli segue un altro di dietro. Cioè, t'hanno circondato in pratica questi centurioni? Brevemente sì. Ti hanno circondato e ti hanno minacciato? No, francamente non mi hanno minacciato, francamente mi hanno messo la mano in faccia. Ah, perché quindi t'hanno menato? Cioè, t'hanno picchiato? Sì, mi hanno menato, sì, mi hanno menato, sì. Sì, mi hanno messo la mano in faccia e poi uno che è grande, che è uno, quello più grande di tutti che sta là, me lo ricordo molto bene, è grosso, enorme, è quello cosa, mi ha preso la mano, mi ha messo la mano nella sacca di quella che ho, nella sacchetta che ho preso, e mi ha preso i soldi. Cioè, ti ha derubato, ti ha rapinato l'incasso. Cioè, ti ha preso l'incasso della giornata. Esattamente. Ma scusa, ma quando tu gli dicevi, ma guardate che la strada è libera, è di tutti, posso lavorare anch'io, loro che ti rispondevano? Lui mi ha risposto, strada libera un cazzo, tu non sei nessuno, noi non ti conosciamo, te ne devi andare. Quindi il territorio è controllato dai centurioni storici, quindi non è un mestiere di strada libero, no? Lui mi ha detto, devi conoscere. Ah, devi conoscere, come se ci fosse un'organizzazione che controlla il monopolio di questo mercato, diciamo, di questa attività. Sì, certo che io non conoscevo nessuno, se no la mano in faccia non me la metteva, che me lo ricordo. E tu poi hai continuato a fare il centurione o insomma hai avuto paura? Me ne sono andato, perché sono tanti, cioè mi hanno circondato, mi hanno messo la mano in faccia, io non so fa mia, un'altra mano non me la faccio mettere, perché spaventato. La prossima volta mi rompono qualche cosa. Ascolta, questo ho pensato. Armando, ma li hai denunciati? Ma che te denunci, ma e denuncio perché vado a dire che ve lo faccio centurione in mezzo alla strada. Come lo dico questo? Scusami. Senti, eppure tu c'hai ragione. Allora, facciamo una cosa, facciamo una prova. Armando, se sei d'accordo, no Filippo? Sì, Armando, allora rimani in linea e rimani in silenzio, perché adesso noi chiameremo un vero centurione, cioè uno che sta lì e che se la comanda e che da anni fa questa attività, ed è magari anche uno di quelli che ti hanno cacciato via, no? E vediamo cosa ci dice a noi e poi magari vi mettiamo in contatto e vi parlate. Quindi stai zitto, non parlare. Noi dei Fuori Posto in esclusiva a Radio 24 proviamo a mettere in contatto per la prima volta, no? Armando, che vorrebbe fare il centurione, no? Con chi il centurione lo fa veramente, no? Esatto, con un centurione storico, titolare, uno di quelli che dice: qui comando io, la zona è nostra. Mi raccomando, zitto, non parlare, ti chiamiamo noi poi, eh? Resta in linea. Pronto? Buongiorno, parlo con un centurione in carne e ossa? Sì. Benvenuto a Radio 24, ai Fuori Posto. Stai lavorando? Ah, sì, sto sopra la metro del Colosseo, sto facendo la foto con i turisti. Ah, con chi turisti stai facendo la foto? Giapponesi? No, dei turisti francesi, ci hanno portati, ci ha portato un amico mio dell'NCC. Quanto ti hanno dato in cambio della foto? Offerta libera. Cioè, quindi quanto ti hanno dato? Ci hanno dato 5 euro. 5 euro. E l'offerta, sì, media a quanto ammonta? L'offerta media 2-3 euro. Ah, dai, così poco? No. Senti, se vieni qua ne parliamo a voce, che devo fare la foto, mi stanno aspettando. Senti, Danilo? Dimmi. Danilo, si parla sempre di, in questi giorni, ma anche in passato, si parla della famosa mafia dei centurioni. È vera o è una cazzata sta cosa qua? È una gran cazzata. Quindi per esempio, Danilo, se una persona qualsiasi volesse venire al Colosseo vestito da gladiatore e farsi le foto con i turisti, può farlo? Beh, noi siamo un'associazione culturale, noi lavoriamo, noi dell'associazione, però chiunque vuole può farlo. Ah, ok, quindi io domani mattina, se io volessi cambiare mestiere, potrei venire vestito da antico romano e farmi le foto e per voi va bene, non è che mi cacciate via. No, io non ti caccio via assolutamente, mica è mio il Colosseo. Giusto. No, perché ci ha chiamato adesso un nostro ascoltatore che dice che aveva provato a fare il centurione, ma qualcuno gli ha menato. Secondo te è possibile una roba del genere o no? Non ne ho la più pallida idea, perché io non ho mai fatto una cosa simile. Tra l'altro non mi è mai successa una cosa simile, non ho mai trovato nessuno qua che voleva fare il gladiatore. Ascolta, per chiarire questa cosa, Armando, sei con noi? Sì, pronto. Ecco Armando, abbiamo in collegamento Danilo, che è un centurione che sta lavorando in questo momento al Colosseo. Ecco, gli puoi spiegare quello che ti è successo quando hai provato a fare tu il centurione al Colosseo? A me è successo questo, Danilo, scusa, io non ti conosco, a me è successo questo, ciao, che io 2-3 anni fa sono andato davanti al Colosseo, dove tu dici di stare lì, davanti alla fermata del Colosseo, e sono vestito di tutto bene, cioè non vi facevo sfigurare, ero vestito bene come un centurione, ero vestito bene, con connellino, con bracciali, con l'elmo in testa, tutto quanto. Io dopo un poco facevo dei soldi, Danilo, è arrivato uno che era piccoletto, dice: tu che fai? Sto qui in mezzo alla strada come te, siamo in mezzo alla strada insieme per prendere una diretta, lui mi ha detto: tu qua non c'è papà, va te ne devi dire. Mi dice, dico: perché? La strada è mia, la strada, te ne devi andare. Quando io ho sentito Danilo, è venuto uno più grosso, più grande, quello più grosso, uno grande, e mi ha detto: tu te ne devi andare, capito? E mi avete circondato, e quello grande mi ha messo una mano in faccia. Ah, davvero? Capito Danilo cosa è successo? Guarda, a me non mi è mai successa una cosa del genere. Non è che sei stato tu, no? Mi ha preso il denaro che avevo fatto con i turisti, di cui una giapponese mi aveva dato 30 euro. E me li ha presi. Vabbè, giustamente... A me non è mai successa una cosa del genere. Mi dispiace per il signore Armando. Armando. Comunque diciamolo che nessuno di voi è violento, giusto? Nessuno di voi alza le mani. No, dell'associazione culturale non siamo nessuno né violenti e né alziamo le mani. Ah, ok. Mai successa una cosa del genere. Allora possiamo... Allora senti che sto di una cazzata. Allora magari facciamo così, Danilo. Armando potrebbe venire anche domani mattina a fare l'antico romano al Colosseo? Assolutamente sì, il Colosseo mica è mio. Quindi può entrare a far parte, Armando, di questa associazione culturale, giusto? Associazione, dobbiamo fare la votazione tutti quanti. C'è una votazione. Mi sa c'è che votate no. Eh sì, per entrare in associazione si fa... Noi sono 20 anni che stiamo qua. Quindi può, però dici... Può farti lavori in vita sua. Ma noi sono... Io ho 35 anni, sono 20 anni che sto qua. Quindi può essere che qualcuno gli abbia menato, Armando? A me mi ha detto devi conoscere, ma che vuol dire? Ma scusa, Armando, scusa, ti posso fare una domanda? Allora, Armando che si confronta con Danilo, Armando aspirante centurione che si confronta con chi centurione lo è al 100%, giusto? Esatto. Da vent'anni. Armando, ti posso fare una domanda? Sì. Mi senti? Sì. Ma se ti è successa una cosa del genere, ma che colpa ce n'ho io? No, vabbè, ma lui non dice che è colpa tua, lui sta raccontando un fatto. Non ho capito, cioè tu mi chiami per telefono, mi dici a me 2-3 anni fa mi è successa una cosa, pare come se ce l'hai con me. No, non ce l'ha con te, però lui parla di alcuni tuoi colleghi che operavano già da tempo e l'hanno cacciato via. Sono amici tuoi che mi hanno messo la mano in faccia. Ma che ne sai? Ero vestiti come te. Vabbè, che c'entra? Uno perché è vestito uguale vuol dire che sono amici? E chi so allora? Scusa, sono marziani, ero Sono altre persone che fanno lo stesso mestiere che faccio io, che magari io non conosco neanche. Ma non fate parte di un'associazione tutti quanti, scusa? No, siamo associazione, siamo 17. Ma da quando l'avete fatta questa associazione culturale? Da giugno. Che state... C'è qualcuno insieme a te? Sì, siamo in 3 dell'associazione qua. Possiamo fare un appello a tutti quelli che vogliono fare i centurioni a Roma, come contattarvi per entrare nella vostra associazione? Sì, noi siamo qua sopra Metropolitana Colosseo. Cioè la vostra sede è sopra la Metropolitana sì. Colosseo? Venite la mattina qua e stiamo qua. Però per entrare, cioè voi dovete mettere i voti, no? Giusto? Pronto? C'è qualcun altro che vuole parlare? Sento che qualcuno sta confabulando accanto a te. Se vuole intervenire. Io passo il presidente dell'associazione. Che onore, okay. Che bello. Pronto? Presidente, buongiorno, piacere, Filippo Roma è fuori posto. Ecco, no, volevamo sapere com'è possibile entrare nella vostra associazione? C'è una persona che voglia diventare come voi un centurione, no? Che deve fare per diventare un vostro collega? Per diventare il nostro collega già lo sei, dove abiti? Io? No, io abito a Roma, io non voglio farlo, però abbiamo al telefono Armando che un aspirante centurione. Allora, sei un giornalista, un amico d'Armando. Cioè c'è Armando. Armando può fare quello che vuole, è libero di fare quello però che vuole. Però sai qual è il problema? Che lui 2 o 3 anni fa ha tentato di fare il centurione ed è stato accerchiato da 2 o 3 di voi ed è stato cacciato in malo modo. Ho tentato di aprire il negozio a San Basilio, è venuto il racket e mi hanno fatto richiudere. Però non tutti fidano a mignotta, cioè, capito? Armando si mette una divisa, chiede un permesso e si mette a lavorare. Non lo devi chiedere a me il permesso, a noi. No, però se Armando volesse far parte della vostra associazione... C'è una votazione segreta e... Segreta? Non ha precedenti... Segreta, ovviamente, perché dice... Scrutinio segreto. Non ha precedenti penali. È una persona, una brava persona, è disoccupato, non ha un altro lavoro. Perché Armando è disoccupato. Armando è disoccupato e anche famiglia. Non è che io do il lavoro, ti sto dicendo, sei una brava persona, non ha lavoro, non ha precedenti. Guarda, il presidente Armando è in linea con noi, glielo posso presentare? Ma presidente, anche lei fa il centurione? Mi puoi ascoltare un attimo? Presidente, anche lei fa il centurione? Certo, ascoltami, ecco. Adesso faccio io una domanda a te. Adesso noi stiamo lavorando, facciamo qualche euro. Se vuole Armando, vieni qui e ne parliamo a voce, perché per telefono non mi sembra carino non parlare a faccia con le persone. Vabbè, però, okay. Cioè, perché Armando comunque può stare tranquillo. Armando, stai tranquillo. Domani mattina Armando vi raggiunge. Armando, ci sei? Sì, ci sono. Domani mattina... anche tu, guarda. Lasci la radio e vieni qui anche tu, così lo proteggi tu. Bene. Non c'è bisogno di... Armando, stai tranquillo perché non ti ammazzano, hanno detto. Presidente, me lo garantisci? No, non garantisco solo per mia moglie e i miei figli, non garantisco per nessuno. Rischio di vita c'è. Senta, adesso io sto lavorando, sto cercando di portare il pane a casa. Se vuole parlare con noi, mi dispiace, ma adesso ti chiudo la comunicazione. No, aspetti, presidente, non ci lasci. Ciao. Pronto? Pronto? E niente, il presidente ha attaccato. Allora, caro Armando, Allora, la garanzia al 100% che non ti ammazzano proprio, non siamo riusciti a strappargliela. Noi ci abbiamo provato, Armando. Tu domani mattina prova a presentarti al Colosseo. Da solo? Da solo, sì. Poi facci sapere come va, ovviamente. Mm. Tu vai presso la sede di questa associazione che si trova sopra la metro, la fermata della metro del Colosseo, vai dal presidente e vedi se ti accettano. Diventi, diciamo, oggetto di questa votazione e facci sapere come va. Sì, magari, ecco, per sicurezza personale, visto che io e Filippo siamo impegnati qui in radio e non possiamo venire, magari non ci andrà proprio da solo, no Filippo? Sì, no. Esatto, fatto accompagnare, trova un guardaspalla. La garanzia sulla vita al 100%, insomma, non ce l'hanno data, quindi... Non l'abbiamo visto così disponibile, presidente. No, attaccato. Attaccato. Attaccato, però, insomma, magari ti menano e non ti ammazzano. No, ma scherziamo, ovviamente. Magari, magari non succede niente, anzi, sicuramente non succederà niente. Comunque, tienici aggiornato. Va bene. Facci sapere. Tu continua a inseguire il tuo sogno di diventare centurione. Noi, grazie. Noi dei Fuori Posta abbiamo fatto quello che potevamo, no? Sì, ti abbiamo messo in contatto con chi comanda al Colosseo e abbiamo provato a, diciamo, a facilitare questo ingresso da parte tua nel mondo dei centurioni romani. Tu domani mattina prova ad andare lì e facci sapere come va. Sì, grazie. Voi che ci ascoltate da casa, se volete andare a proteggere Armando sotto la metro, sopra la metro fermata al Colosseo, esatto. Armando alle 10 in punto domani è lì. Oppure se volete vedere, assistere a una mattanza del Armando. Dai. Grazie, andate. Armando. Ciao Armando, grazie. Ciao. Ecco, vedi, Umberto, questo che sta per arrivare è per me il momento più bello della nostra puntata. È stupendo, mi piace da morire. Lo so. Anche perché non ti è mai capitato nella vita, no? Che ti corteggiassero così tanti e così tante. Ma mai nella vita. E infatti per questo sono felicissimo di essere l'oggetto della contesa di così tante belle ragazze. Ricordiamo che è un reality e quindi è finzione, eh? È un reality e ricordiamo lo stesso. Ma come tutti i reality potrebbero trasformarsi in realtà. Cambia speranza in realtà. Ti ricordo che sei chiaro. Sposato in crisi, ma sei sposato. Ho capito, però infatti questo Filippo sarebbe Roma modo... ha grandi problemi di ansia sessuale. Adesso lo sostiene la moglie. Adesso io, se il mio avvocato mi sente, manda subito una bella lettera di denuncia a Umberto Lezzo che mi sta diffamando. A lui e pure a mia moglie. Ma torniamo al nostro Radio Reality. In che consiste il primo Radio Reality? In ogni puntata due giovani ragazze si sfidano per corteggiarmi, cioè il loro obiettivo è riuscire a conquistare il mio cuore. Quindi io alla fine di ogni puntata mi metto lì a pensare e in quella successiva comunico alle due chi è la vincitrice. E queste sfide sono molto accanite perché le ragazze, pur di conquistarmi, si accapigliano in maniera veramente clamorosa, offendendosi a volte anche in maniera molto molto pesante, come è successo l'ultima volta tra Silvia e Letizia, no Umberto? Sì, certo. Allora, nella scorsa puntata, ricordiamo, tu hai avuto una grandissima opportunità, caro Filippo, perché abbiamo ospitato Silvia, che in quel caso era vincitrice di puntata. È la campionessa in carica, Silvia. Chiedo ad Andrea, dalla regia, di ricordare Silvia. Sei una falsa, sei una bugiarda, ma ti senti, ma dovevo andare a Las Vegas dei poveri. Grazie. Silvia, nella scorsa puntata del nostro Radio Reality, si è scontrata con Letizia. Falsa! Tu sei una falsa! Dici solo falsità e sei una grandissima bugiarda! Quindi, parliamo di un livello altissimo. È un livello molto molto alto, molto alto, bisogna dire la verità. Caro Filippo, hai avuto qualche ora. Come al solito è stata una scelta, devo dirti, molto tormentata, anche perché Letizia mi aveva molto colpito con questa proposta di portarmi al lago. Sì. Questa cosa mi ha molto colpito, devo dire la verità. Però anche Silvia, insomma, ha il suo fascino. Silvia è sempre Silvia, infatti non a caso è la mia campionessa in carica. Come tutti i grandi reality, è arrivato il momento della scelta. Quindi io ti chiedo di raccogliere le energie. Ti lascio ancora qualche istante di tempo. Ma si può fare domani o... No. La domanda che ti faccio, Filippo, chi tra Letizia e Silvia decidi di portare avanti in questo percorso importante? Allora, prenditi ancora qualche istante. Anche questa volta la scelta è stata veramente tormentata. Sale la tensione, sale la musica. Io approfitto per chiedere a chi ci ascolta quale sarà la scelta di Filippo. Ci sei? Sì, ci sono. Allora ti faccio la domanda e tu mi rispondi. Vai. Caro Filippo, chi hai scelto tra Silvia e Letizia? Silvia! Ancora! Sì, Silvia. Incredibilmente, ancora una volta Silvia supera la prova. Sì, perché quando c'è stato la tu per tu, lo scontro con Letizia, mi è piaciuta tantissimo la sua aggressività. Attenzione, vedi? Vedi, alla fine poi piace la donna aggressiva. Sì, vedi? Piace, piace. Io approfitto per dare un bacio alla mia ex, vabbè, ecco, ma quella è un'altra storia. Sì. Comunque, detto ciò, Silvia, sei contenta? Contentissima, me lo giuro, non me l'aspettavo ancora. Hai visto, Silvia, sì. Allora, ragazzi... Filippo, te lo giuro, io t'adoro tantissimo. Brava, così mi piaci. Allora, facciamo l'esterna, dai. No, no, non ti montare la non ti montare la testa, perché... È vero, okay, che dai, ormai... Sono buona. Allora, Silvia... Sono brava e buona. Io sono un angioletto. Cosa ne pensi di me? Beh, che sei... Cioè, io la farei... Sicuro l'esterna è da fare. Per carità, magari non risulto vincitrice, però ci dobbiamo incontrare io e te. Mi non piace, sai come io la penso. Sono bello? Silvia. Sono bello? Ma tanto. Tanto? Tanto. Allora, ragazzi, io non vorrei fare il guastafeste. Non vorrei interrompere questo momento... molto romantico, ma cara Silvia, devo ricordarti che è vero che hai vinto per la seconda volta una puntata, ma il tuo avvicinamento verso Filippo non finisce qui, perché anche stavolta dovrai scontrarti con un'altra ragazza altrettanto agguerrita. Io quest'oggi con noi c'è Asia. Ci sei, Asia? Ciao, salve. Ciao Asia, senti, io però vorrei prima capire una cosa. Ti descrivi? Come sei fatta? Fisicamente? Sì, fisicamente. Allora, sono abbastanza alta, magra, abbastanza, diciamo, tonica, faccio palestra. Come sei messa? Bionda. Come sei messa a tette? Meno, diciamo che sono messa più alla torbina. Vabbè, interessante però. Cioè, comunque ti va bene? Sì, sì, c'è un bel culo. Insomma. Notate, Filippo, quanto è profondo, no? Fa domande non sul carattere, ma sull'aspetto fisico. Vabbè, insomma, che uomo orribile. Mamma. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Ah. Dove sei tu in questo momento, Asia? In questo momento sono in treno a 20.000 e ritorno da Cannes in partenza per Milano. Oh. Eri lì per qualche evento letterario, per qualche mostra? No. No, no. C'era il party di Leonardo DiCaprio ieri. Attenzione, quindi sei una importante. Quindi già sei inserita? Sei inserita. Certo. Scusa, la domanda che ti faccio, come fai a passare da Leonardo DiCaprio a Filippo Roma? Beh, lui si reputa molto bello, quindi io sono amante della bellezza come D'Annunzio, perché no? Ah, come D'Annunzio. Come D'Annunzio. Non è proprio... insomma, vabbè, però insomma... diciamo che... Non è, insomma, cioè, dai. Non è un grandissimo. Vabbè, io sorvolerei. Comunque, detto ciò, dici i valori importanti della vita per te. Li devo dire tutti o solo uno? Intanto dinne uno. La disponibilità monetaria. Ah, hai capito? Un valore molto profondo. Molto non so se ti va bene, perché Filippo, conoscendolo, prima è tirchio e secondo c'è una lira. Ah no. No, no. Vuoi ritirarti? No, non mi arrendo. No, non ti arrendi. Bravo, okay. Mi piace, questo mi piace. Allora, questo mi piace. Dovrei scontrarti con Silvia, che ti ricordo ha già vinto ben due puntate. Non mi fa paura. Non ti fa paura, va bene. Mi piace, okay, anche questa sfrontatezza, brava, brava. È aggressiva, no? Sì. Lei vuole te ed è disposta a tutto per conquistarti. Come tutte le donne, certo, del mondo. Tu non sei sotto l'effetto di droghe, giusto? No, non bevo nemmeno. Ah, vabbè, okay. Quindi sei pazza così, nel naturale, perfetto. Allora, corteggia... Filippo, è il tuo momento. Allora, Asia, ascoltami. Io sono abituato a essere corteggiato da moltissime donne. Ecco, tu che cosa mi proporresti stasera insieme io e te? Cosa faremo stasera insieme, dici? Esatto. Cosa mi proponi per conquistarmi? Allora, innanzitutto, in un luogo romantico, magari spiaggia dove c'è il tramonto. Hai capito? Tutti i... insomma, alla greca, in piena relax, per cena. Beh, io cucinerei un sushi per te. Ah, cucini tu? Indossando uno di quei vestitini bianchi trasparenti tipici della Grecia. Ah, e bello. Con un fiore rosso orchidea per i capelli. Notiamo la cura dei dettagli. Bella, bella questa di cosa. Asia. E poi senti, noi ceniamo, che si fa dopo in spiaggia? Ma cazzo, sempre là. Ci si conosce, no? Che maniaco. Ci si conosce e basta? Nel senso che iniziamo a parlare, capiamo che cosa abbiamo in comune, i nostri gusti, e poi vediamo. Mm-hmm. Silvia, come rispondi? Ma io rispondo che conoscendo Filippo lui vuole andare molto più in fondo, è molto più profondo come persona. Lo conosco pure io Filippo. Brava io Silvia. Non lo conosco, quindi hai per proprio... questo ho detto ci conosciamo. Ragazze... Ci hai preso in pieno, sono molto profondo. Ragazze, insultatevi. Guarda che tu fai l'acqua, tu dovresti andare a fare la pastaia, perché il mattarello è l'unica cosa che bello, sai dare. Bello, quella della pastaia è bella. Che immagine. Che sei soltanto disponibile per fare una cosa, il tuo lato B, tutto palestrato, io te lo piglio a calci, carina, capito? Mamma, mi è sempre più aggressiva, Silvia. Asia, rispondi! Io credo che il mio lato B, appunto perché è palestrato, non riuscirai a prendere a calci, al massimo ti vito. Bella risposta. Silvia? Guarda, tu sei una falsa, sei una bugiarda, te ne dovresti veramente andare... Non hai capito nulla di Filippo, vuol dire che manco l'hai seguito. Cosa viene a corteggiare un uomo che non manco segui? Ammazza Silvio. È una giusta osservazione. Mamma Asia, mia. Rispondi? Ma non basta conoscere un uomo per corteggiarlo. Silvia? Okay. Silvia, guarda che Asia è agguerrita, Sferra l'ultimo attacco. Tu, visto che tu fai la velina poco intelligente, tutta frufru, fai la signorina della notte, visto che il cucchiaio lo si sarebbe bene, il lato B lo usi da Madonna. Hai capito che risposta, attenzione, attestata. Asia, ultima risposta a tua disposizione. Certo, innanzitutto io non soltanto perché faccio palestra non è detto che io punti tutto sul mio lato B, altrimenti non sarei in questo programma a corteggiare l'altro ragazzo. Giusto. Ragazze, vi devo fermare, ragazze, scusate, il vostro tempo a disposizione per oggi è scaduto. Io, caspita, sento... Ma sai cosa succede, Umberto? Che cioè, sono vere queste ragazze. Sono vere, ma è chiaro che loro dovendosi sfidare per avere me, è chiaro che tirano fuori il meglio di loro. Sì, c'è poco questa da fare. Allora, secondo me, io sospetto un uso di droghe abbastanza massiccio. Non è vero, Umberto, perché lo sai una cosa? Anche oggi ci sono sotto, qui all'uscita, all'entrata di Radio 24, un gruppo di ragazze che mi stanno aspettando. Sì, stanno aspettando sì, me. Sì. E quelle non sono ragazze, insomma, che... Ti corteggiano, ma e fuori posto avanti, siamo abituati avanti. A allora, vedere di tutto, no? E ad ascoltare di tutto, soprattutto. Abbiamo visto veramente di tutto, cose incredibili, ma anche oggi non scherziamo, mi sembra, no? Beh? Perché incontriamo uno che non ci aveva un posto e si è inventato una cosa eccezionale. Secondo me è geniale. Geniale, le vacanze per single. Lui si chiama Beppe, no? E è stato uno dei primi, soprattutto in Italia, a organizzare lo speed vacanze. Che cos'è lo speed vacanze? Lo speed vacanze sono vacanze solo per single. E quindi con una grossa possibilità di acchiappare. No, magari mica solo di acchiappare da quel punto di vista. Magari uno c'è una conoscenza, può sbocciare un amore, un'amicizia, perché no? Anche tra due uomini, tra due donne, tra gruppi di persone. Le vacanze per single non sono mirate solo ed esclusivamente all'acchiappo, caro Filippo. Pensavo invece fosse per quello, allora, mi sbaglio. Che maniaco sessuale. Comunque, facciamocelo raccontare direttamente dal la viva voce di Giuseppe. Ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno a tutti. Ciao Beppe. Spiegaci come funzionano queste speed vacanze. Vabbè, prima di tutto non ti diremo mai vieni in vacanza con noi, che ti innamori, che ti sposerai, perché quello non è lo scopo della vacanza. Però diciamo che la vacanza nasce che dà la possibilità a chi vuole partire da solo, per qualsiasi motivo, di partire e farsi una vacanza. Però stringendo, no? Se io vengo a fare questa vacanza da single, già la sera stessa riesco a quagliare, a consumare un rapporto sessuale? Questo maniaco sessuale. Questo bisogna vedere quanto sei capace te a sedurre una donna. Ti dico subito a zero. Cioè zero, incapace. Insomma, che tipo di gente frequenta? Ma guarda, rispecchia la vita. Cioè, rispecchia la vita. Tu trovi persone da tutti... posizioni sociali, quindi ci sarebbe guarda, il muratore, siccome ci conosco, sarebbe il notaio. Siccome conosco il mio amico Filippo Roma, lo conosco come le mie tazze, lui vuole chiederti, solo che non ha il coraggio perché ha paura che lo prendo per il culo, se viene a fare sto speed vacanze c'è la possibilità che incontri qualcuna veramente molto buona? Questo dipende, i suoi gusti sono soggettivi, però se uno è bello, mi piacciono quelle buone. Se uno è bella, è bella. Cioè. Bisogna vedere se sei bravo a chiappare quella più bella. Quindi... Senti, l'ultima cosa, ma c'è qualcuno invece che a parte l'acchiappo di una notte di passione, invece si innamora e magari... Insomma, va avanti in un fidanzamento e perché no in un matrimonio? Allora, i nostri tour leader che lavorano con noi da tantissimi anni fanno le gare su chi ha più inviti a matrimoni. E se non sbaglio, c'è Veronica che ha 25 inviti a matrimoni, quindi diciamo che questo capita, però come dico, speed vacanze non è vieni con noi che ti facciamo sposare, spi vacanze. Non fate miracoli, certo, nel caso di Filippo parti Roma. Da okay, solo, torni in compagnia. Questo è, e poi, questo è già un buon motivo, Beppe. Sei stato chiarissimo, ci hai spiegato bene come funziona questo speed vacanze. Allora ci vedremo presto. Insomma, mi spaccerò per single perché sposato, poi ti chiamo in privato. Che maniaco, grazie, Beppe. Ciao, ciao. Beppe, grazie. Ok. Grazie a voi. Ormai sei fuori, sì, qualsiasi controllo. Se sono... sei fuori, ma io ti riconduco sulla retta via. No, no, perché voglio parlare di amore. Ancora no, con ma non di me, non di me, non di me. Abbiamo Barbara e Marco che si sono conosciuti durante uno speed vacanze, una settimana credo in Sicilia, e tra pochissimo si sposano. È corretto, Barbara, Marco? Correttissimo, ciao a tutti. Benvenuti e fuori posto. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dove vi siete conosciuti? Siamo conosciuti nel 2012 in Sicilia. In Sicilia, e durante uno di questi speed vacanze. Com'era questo speed vacanze? Com'era organizzato? Ma è una vacanza normale, con le attività tipiche delle vacanze. Filippo è un po' decoccio, sì, perché Beppe ci ha spiegato per mezz'ora che sono vacanze per single, ma lui è un po' lento. Lui essendo maniaco sessuale, pensa solo a quella roba là. Voglio capire fino in fondo, capito? Se la cosa funziona. Veramente, secondo me, interessante e vincente è quella che fondamentalmente racchiude tutta una serie di persone che vuoi che chi per scelta, chi per vicissitudini della vita, insomma, si trova ad essere single. E quindi quando vai in vacanza comunque ti trovi anche in situazioni dove magari ti trovi gli amici in coppia con i bambini, e quindi comunque la necessità anche di una vacanza diversa, anche per gestire il tempo libero, le gite, con chi ha le tue stesse esigenze. Vabbè, ma non parlare sempre tu, Barbara, è così? Ecco, bravo. È così, guarda, io veramente ho dovuto superare un po' di barriere mentali per prenotare la vacanza, poi invece è una cosa che rifarei 2000 volte e che veramente raccomando a tutti, perché all'inizio siamo un po' titubanti a fare delle cose da soli, a partire da soli, a dormire in camera magari con persone che non conosciamo, mentre invece si crea un'atmosfera talmente magica che è un toccasana sia per la mente che per il fisico. Per vabbè, tutto. Un'atmosfera da rimorchio, no? Diciamolo. Cioè... No, perché no. No? Come no? Senti, Barbara, raccontaci il momento del rimorchio, della conoscenza, del bacio. Il momento del bacio è stato facendo una passeggiata lungo il mare e siamo presi la mano e ci siamo dati un bacio sotto la luna e le stelle. Sentite, e quando è che invece avete consumato? E qui esce l'anima di maniaco sessuale di Filippo Roma. Non abbiamo ancora consumato, infatti. Filippo Roma ha bisogno di aiuto. Cioè, non avete ancora fatto l'amore? Eh certo, stiamo aspettando proprio per fissare la data, cioè, del matrimonio. Poi, siete? Esatto, sì, tutti e due. Adesso vi racconto una cosa bellissima. Vai Marco. Allora, il primo bacio è venuto in questo modo, passeggiando sulla spiaggia, sul lungomare, ci siamo trovati in un barettino, quelli tipici sulla spiaggia, sì. E non c'era il barista, quella sera non si era presentato, allora noi volevamo bere uno spritz e c'era un ragazzo che fa, ma io faccio il cameriere, ci provo a farlo, e si è messo lì con il libricino dei cocktail e ha fatto lo spritz, per la prima volta il più buono sulla faccia della terra. Adesso noi abbiamo preso un cane, e il nostro cane si chiama Spritz, perché dopo lo spritz ci siamo applausi, baciati. Ragazzi, che carini, cioè, che carini, che teneri. Senti, lo speed vacanze funziona. Marco e noi bravo. Sappiamo che Marco ci sa fare. Va bene, ragazzi, noi insomma vi facciamo i nostri migliori auguri. E figli maschi e da vacanze, parte di tutta Radio 24 e dai fuori posto. E vacanze per famiglia a questo punto, d'ora in poi. Mi raccomando, Barbara, occhio che Marco lo sento che potrebbe continuare a fare le vacanze per single di nascosto. Se ti dice, cara, vado una settimana fuori per lavoro, controllalo. Può essere pure che lo faccio io, però. Attenzione. Grazie, ragazzi. Auguri. In bocca al lupo per tutti. Ciao. Grazie. Arrivederci. Ah, eccoci qua, ultima parte solo per oggi dei fuori posto, no? Ultima parte di programma dei fuori posto. Sì, che è la parte che interessa di più ai nostri ascoltatori, perché di solito si parla di economia. Sì, a tal proposito, Umberto, questa è la volta buona, perché ieri sera sono riuscito ad avere un contatto diretto con il ministro dell'economia Padoan. Cioè, ministro in pectore, in carica? Esatto, ministro in carica. Gli ho raccontato un po' del nostro programma, è rimasto entusiasta, gli piace tantissimo l'idea. Cioè, Padoan, ministro dell'economia della Repubblica Italiana, ascolta i Fuori Posto Radio 24? Ascolta, te quando l'ho chiamato, ho detto, sono Filippo Roma dei Fuori Posto. Ma certo che vi conosco, a te Umberto che c'ha un problema d'amore, sapeva tutto. Cioè, pure Padoan si è appassionato della mia vicenda d'amore? Sì, c'ha anche due o tre consigli da darti, poi vabbè, ti do il suo cellulare e vi parlate in privato. Veramente? Sì, sì, sì. Però era così entusiasta, ha detto, ma io voglio assolutamente prendere il posto di quel cialtrone di Ciruzzo Tozzi e da domani sarò il titolare della vostra rubrica di economia. Quindi da oggi abbiamo Padoan. Cioè, ma ti ha dato il cellulare? Ma ha dato il cellulare. Quindi lo possiamo chiamare direttamente il cellulare? Anche adesso. Vabbè, chiamiamolo. Allora, ragazzi, mi chiamate Padoan? Sei sicuro tu? Sì, sì, allora. Quindi squillerà e dall'altro capo del telefono ci sarà... Padoan. Ci sarà il ministro Padoan. In persona, ministro dell'economia, ministro ricordiamolo. Ministro dell'economia del governo Renzi, che ha deciso di diventare il nostro ospite fisso nella rubrica dedicata all'economia, fuori economia. A fuori economia. Sì, quindi sì. Facciamo partire subito fuori economia. Certo. E buongiorno, benvenuti a Fuori Economia. Oggi in esclusiva, solo per noi, per Radio 24 e per i Fuori Posto, il ministro Padoan. Buongiorno, ministro. Parla, forse qua il cellulare, parla, forse? Ministro, mi sente? Un attimo solo, non vuole parlare più. Ma Padoan non era ma amica, voce non però... era napoletano Padoan? No, no. Tu hai detto che vuoi via il mio posto? E se qua, sta il cellulare, vuoi parlare con loro? Parla con... Adesso non vuoi parlare più, è vergogna. Pronto? Ministro? Scusate ragazzi, scusate. Sono Ciruzzo, no. Volevo dire una cosa. Ma come sei Ciruzzo? Noi abbiamo chiamato il ministro Padoan, come il cellulare era quello di Padoan. Ho capito, ma non vuole parlare più con voi, che ci posso fare? Dice che prima me l'ha detto che voleva prendere il mio posto, dice ma adesso non fa niente, ha sentito la registrazione delle puntate, ha capito che c'è stato un grande successo con me, ha paura. Ma non esagerare, un grande successo, Padoan ha paura di te. Ha paura, diciamo, di fare brutte figurelle, diciamo, queste cose qua. Perché sei un cialtrone, allora, poi peraltro. Parla tu al posto mio, capito? Io non ci voglio parlare più, non deve parlare lui. Se hai coraggio di quello che ha detto a voi, deve parlare lui. Passaci allora, Padoan. Facci parlare con Padoan. Non vuole parlare. Padoan, noi abbiamo bisogno tu. Di professionisti. Ma che mi metti a fare a me in mezzo? No, non voglio parlare io. Parla tu adesso. No, parla però, però c'è il ministro. Oddio. Ma siamo parla, sicuri? Era Padoan. Ministro? Ministro? Ministro? Ministro? Parla, vuoi dire una parola? Non so. Ministro, pronto? Buongiorno. La sveglia. Ministro, grazie di essere fuori posto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che abbiamo in diretta il ministro dell'economia Padoan. Filippo, grazie. No, ce l'ho fatta. Ce l'ho. Cedo volentieri la parola a Ciruzzo Tozzi. No, ministro, non se ne vada, no! Più capace e più competente di me, ed è certamente l'altezza. Ma non è vero, ministro, l'economia è più competente. Ma non è vero! Ciruzzo è un cialtrone! È un buffone! Faccio un passo indietro e cedo la sua voce, la sua testimonianza, la sua esperienza al servizio di Radio 24. Io sono emozionato. Vai, anche tu, incredibile. Adesso? Ciruzzo, ma è incredibile, noi non ci credevamo. Cioè, incredibile. Ma quindi tu e Padoan siete amici per davvero? Ma che scherzo, ragazzi, io c'ho un sacco di amicizie, io sono io che questi qua mi scucciano, io non ci voglio parlare perché c'ho da fare. Addirittura fai lo snob. Scusate un attimo, per piacere, mi vuoi fare un caffè almeno, che sto qua a posto tuo, sì? Cioè, addirittura tu comandi Padoan. Vado qua. No, un po' di rispetto per il ministro. Ma dove... Ma tanto per curiosità, no? Perché mo mi sto appassionando, incredibilmente mi sto appassionando. Tu e Padoan, adesso dove sta Padoan? Perché uno se lo immagina... chiuso nella stanza dei bottoni, sì, a Palazzo Chigi. No, mi stai facendo il caffè, un cucchiaino e mezzo, va bene. Ma comandi così il ministro, scusa. Che palle questo, mamma mia. Speriamo che lo fa bene il caffè, questo non è una povertà. Ma quello deve fare, ma quello è un ministro dell'economia che di dove è Padoan? Di dove è Padoan? È del nord. Certo che no, uno che si chiama Padoan di Padoan. Vabbè, no, è vero, non può essere altrimenti. Scusa, tu e Padoan, no? In quale città siete? Adesso, in questo momento? Attualmente siamo a Napoli. Ah, a Napoli. Ma, cioè, ma scusa, Padoan sta a Napoli? Ma non dovrebbe stare a Palazzo Chigi che c'è il Consiglio dei Ministri? No, vabbè, quello ogni tanto viene qua, se vuoi una cosa con me a sfogliatella, con queste cose qua, ci piace Napoli. Ma con la scorta sta? Non viene con la scorta, se la scorta sempre. Come nasce questa tua amicizia con un personaggio così importante? No, io stavo qua a fare un concerto, come è passato, ha sentito questa musica, si è appassionato alla musica neomelodica fatta da me, è venuto vicino e mi ha chiesto l'autografo. Ma quanto ti spari le pose, mamma, quanto t'attendi? Io in genere non concedo autografi, diciamo, a chi non conosco, diciamo, addirittura, cioè, tu concedi autografi solo a chi conosci. Ma che cazzo? mi hanno detto che era uno importante, io non sapevo, ma che era ma uno non, che non l'hai riconosciuto, sta tutti no, i giorni in televisione, faccio, non li conosco, sento la voce, volte che esci mi dà che dicono per televisione. Allora stai offendendo il ministro Padoan, te lo voglio dire. Vabbè, che fa? Cioè, io non guardo in faccia, ragazzi, io non ho peli sulla pelle, lo dico, io tutto quello che devo dire lo dico, perché sei depilato? Che uomo, ricordiamo come è fatto Ciruzzo Tozzi. Come sono fatto? Sì, come sei fatto? Sì, no, come sono fatto io, come sei fatto tu, come sei fatto? Vabbè, come ragazzi, io sono alto uno, quasi 1,85. Ah, sei alto. Ah, che ti credi? Ah, un bel uomo, quindi. Un bronzo di capelli rossi. Capelli rossi un po' come Umberto Tozzi. Ah, essendo parenti, giustamente. Fino in mezzo, un po' sulle spalle, diciamo. Cioè, sì. Hai copiato i capelli di Umberto Tozzi? No, ho capito pure a me, cominciamo queste storie. Poi? Poi c'ho, diciamo, proprio le tartarughe in petto, cioè proprio le piattole in petto. Le piattole, cioè, i pitocchi, che c'è? Che schifo, che immagini orribile. Che brutte cose. Poi c'ho, diciamo, 60-90, questo per le mie misure, diciamo. Le misure delle miss. Sei una soubrette, sei una miss. Sei Miss Italia. No. Ma c'è un bel accento che chi mi guarda dice che sono prestante, c'è un bel fisico. Quindi piace alle donne, Ciruzzo? Ma ragazzi, quello che succede qua quando mi incontrano sembra di sì, ma non mi voglio sparare la cosa. Ah, vabbè, diciamo, sembra di sì, però è modesto. Un momento però di modestia. Gente, di quando mi vede strilla, dice un bacio a me, no, lo voglio io, si prende un'ammazzata. Insomma, addirittura. Sembrano un po' che, diciamo così. Vabbè, senti, Tiziana, volta. Bando alle ciance, Tiziana ci scrive: caro Ciruzzo, sei molto simpatico, mi piaci, no? Però vorrei una tua poesia. Gliela vogliamo dire a Tiziano una poesia? Va bene, ok. La poesia si chiama Sapore di sale. Ma l'ho già sentito sto titolo, però. No, scusa, ho sbagliato. No, ho sbagliato, scusate. Sapore di mare. Ma non è la canzone di Gino Paoli quella? No, quello è il Sapore di sale. Ecco. Ti presenta Filippo. Diciamo che questa volta siamo di fronte a una poesia ermetica di Ciruzzo Tozzi. E la presenta... Vado direttamente al ritornello, vai. Allora, Sapore di mare. Sapore di sale, di sole, di mare, che sei sopra quello scoglione. Non vuoi sapere niente? Ti devi ambrozzare. Che state farai a Mondragone? Che grande poesia. È finita? Oh, aspetta. Ah, non è finita. Finita. Poi fa così. Du-du-du, du-du-du, du-du-du. Toccolella amorosa sei tu. Come? Scusa? Coccore. Toccolella amorosa sei tu. La sera, tra un raggio di luna e un morso e zanzara, il cuore che fa batticuore. Ti vengo vicino. La scusa è banale. Non andiamo avanti, per cortesia. Mi dici che ora è, per favore? Ah, ok. Però, non male, ma per te ne vuoi peggio. Mi rispondi, è l'ora di andarti a comprare l'orologio. La risposta di... Ti piace? Fa cagare proprio, cioè letteralmente. Cioè, ragazzi... Però posso dire una cosa? Dimmi. Te la posso confessare? Questa poesia l'ho impensata all'intrasatto, sul momento. Si improvvisata, un po' si notava. Non l'ho mai scritta, questa è una cosa nuova. Si sente. Un attimo, c'è Padoan che dice... Pronto, ministro? Ti piace? Cosa prova dopo aver sentito questa poesia? Devo dire, veramente delle parole molto belle, mi hanno colpito profondamente. Rilascio nuovamente la possibilità a lui di sostituirmi tutto e per tutto. Magari faccio la proposta anche a Renzi. Addirittura, cioè, Renzi in persona. Cioè, quindi vorrebbe che Ciruzzo Tozzi prendesse il suo posto da ministro dell'economia. Mi sembra un tantino. Magari me ne vado un po' in vacanza anche a Mondragone e così. Padoan va in vacanza a Mondragone. Cioè, vabbè. Ministro, ma addirittura sento la voce un po' commossa dopo questa poesia. È meraviglioso, dottor. Beh, se lo dice lei, ministro. Se lo dice veramente, bravo. Cioè, Ciruzzo è riuscito a commuovere un ministro. Incredibile. Io, però, d'altronde, parola del ministro Padoan. Se lo dice lui, è così. Grazie. Arrivederci, vado a prendere il caffè. Grazie, ministro. prego. Un cucchiaino e mezzo per Ciruzzo di zucchero, mi raccomando, non si scordi. Che schifo, comunque, ma che schifo, Umberto... di caffè. Madonna, ma questo non sa fare neanche il caffè. Mamma mia, che schifo. Ma fai finta che è buono. Un po' di educazione. Non fai il cafone, di è buono, sì. Di è buono. Ma ragazzi, questo non sa fare niente. Ma chi l'ha messo? Un ministro che ti fa il caffè, sì, gentile. Vabbè, non sa fare neanche il caffè, diciamo la verità. Con questo cacciamo subito via Ciruzzo Tozzi. Chiudiamo Ciruzzo per oggi. è diciamo la nostra pietra tombale. In tutto ciò non siamo riusciti a parlare di economia, ma ormai è diventato così un dettaglio. No, poi lasciamo stare. Vabbè. Filippo, anche per oggi siamo giunti alla fine. Sì, vi aspettiamo domani mattina, però puntuali alle ore 10 con i Fuori Posto, con il sottoscritto e Umberto Alezzo. Scusa, prima di lasciarci, no, ricordiamo i nostri contatti, che è pagina ufficiale Facebook i Fuori Posto, oppure i Fuori Posto @radio24.it, oppure lasciateci un messaggio in segreteria telefonica allo 02 465 24 182, oppure se volete usare il cellulare SMS o WhatsApp al 349 2386 666. Ci vediamo lunedì alle 10 dopo il GR. Dopo il GR, mi raccomando. Buon weekend a tutti.